Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Only Fox 24, come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Os moleque do gueto que arrasta massa. É de Cid, Ronaldinho, tá ligado? Chega aí! Os moleque do gueto que arrasta massa. É de Cid, Ronaldinho, os moleque do gueto que arrasta. Diga aí, Ronaldinho! Tenha fé, negão, pois você nunca está sozinho. Quem comanda a massa? Tenha fé, negão, pois você nunca está sozinho. Chi è il cantante? Chi sta cantando? 800240024 non è, vi do un indizio, non è Franco Piantini del nostro autore, non è Roberto Scaltritti che è in regia, non è neanche Pardo. Ciao Pier. Come va? Chi è che canta? Non è Pete Seeger. Come? Non è Pete Seeger che ieri stavamo ricordando con il signor Bartoletti, il dottor Bartoletti. Sì. Allora, provate a vedere chi sta cantando, vi do 5 minuti di tempo. Senti, Pier, in ordine sparso, allora, Inter vicino a Hernanes si sa da ieri, non è ancora concluso. Notizia di oggi, l'Inter sta trattando con Nani dello United, si continua a parlare di Guerin e Vucinic, storia ormai bollita. Il procuratore del colombiano ieri è andato giù piano, sentiamo. La situazione non è clara. Lo que yo quiero pedir es al señor Eric Toir que por favor piense un minuto en el jugador, en su familia, ma queremos una reunión urgente en persona hace una semana que ningún dirigente de Inter ha hablado con Freddy o conmigo. Una semana que no tenemos novedades de Inter. Allora, Guerin fuori dalla porta, non viene ricevuto. A proposito, allora, grazie anche al nostro appello è stato ritrovato Bruno, il cane di Maresca che era stato perso a Palermo. Era stato lanciato un sondaggio via Twitter a proposito di rete e di Colombia. Lì lanciano sempre via web una petizione: Falcao infortunato, bene, naturalizziamo Ibrahimovic. Evidentemente hanno fatto troppo uso di un noto prodotto nazionale. In Inghilterra rispondono: vabbè, noi naturalizziamo Lewandowski. In Italia non naturalizziamo nessuno, anche perché Giuseppe Rossi non si opera. Esatto, e questa mi sembra una buona notizia, no? Sì, mi sembra una buona, con che prendo con la dovuta cautela, visto che questo professore di Fail in Colorado mi fa abbastanza paura. Ha detto: sotto con la terapia conservativa, caro Giuseppe, esattamente quella che aveva fatto a Gallinari, sai come è messo. E con lui Westbrook, Lindsay Vonn, eccetera eccetera. Questo Tarabt ti piace? Marocchino del Fulham? Ma insomma, considerato che lo scambio avviene con Zaccardo, che non me ne voglia, è stato nazionale, campione mondiale 2006, buonissimo giocatore, anni a Palermo, insomma, diciamo, non era esattamente in questo momento una colonna del Milan, direi che male per il Milan non può andare, insomma, no? Nella peggiore delle ipotesi finirà 0-0, insomma. Sì, 0-0, salvo supplementare rigore in discoteca. No, più che altro non mi sembra un giocatore in questo momento che possa avere grandissimo spazio, perché è l'ennesimo trequartista, mi sembra. Se c'è un settore del campo dove il Milan di soluzioni ne ha a bizzeffe. Sì. Ti piace a bizzeffe? Bizzeffe, mi piace da morire. È proprio quello offensivo, quindi francamente mi sembra così un po' la trattativa minore, però va bene. In compenso lo manda Briatore, perché il cartellino gioca nel Fulham in prestito, ma il cartellino di proprietà del QPR, Briatore lo conosce bene, questo 25enne marocchino, noto alle cronache anche perché un giorno ha detto: Balotelli è un Tarabt all'ennesima potenza ma rischia di bruciarsi. E poi un giorno invece l'hanno sostituito, giocava nel Fulham, la sai questa storia, no? Sostituito all'intervallo con il QPR, appunto, sotto 3-0 se n'è andato dallo stadio in tuta, è salito sull'autobus e poi è andato al Palo a vedere la fine della partita. Fate voi, no? Abbiamo anche un audio su Tarabt, sentiamolo. Beh, anche Hazard, eh? Hazard, sì. Hazard venne sostituito in una partita nazionale belga e uscì. Sì. E venne beccato nel finale con la sua famiglia, a parte un panino in tribuna. ce la fa. Poveretto, ce la fa Azzardo. Languore. Taranto. I just play my natural games the way I play since I am young. I am the player who can score a goal and win the game for my team. Every time I go on the pitch, I know I can make things happen. He was hailed as the Moroccan magician, the star of QPR's promotion-winning team. Sarebbe il nuovo Zidane, ha scritto qualcuno, esagerato, Cristiano Ronaldo del Marocco, vabbè, Tarab, vediamo se viene. Napoli prende Enrique, centrale, mancino del Palmeiras, 28 anni, Diego Forlan va in Giappone, poveretto, per una miseria, lascia il campionato brasiliano, andrà in Giappone nel Cerezo Osaka, quanto becca Pier? Non poco, immagino. 4.2 milioni di euro l'anno, 5.8 milioni di dollari. Dica. Il nuovo allenatore del Sassuolo è? 12 anni, 24 allenatori. A caso, sarà mica sempre l'allenatore qua che deve pagare. Sempre l'allenatore. I tifosi, diano una mano alla squadra oggi invece di contestarla. Abbiano i coglioni di dare una mano alla squadra. Io sono là 24 ore al giorno. Io. 24 ore al giorno sono là io. Tutti i giorni, cazzo. Il nuovo allenatore del Sassuolo è Alberto Malesani. Sei svenuto? No, non sono svenuto, no, non sapevo se stavi per lanciare qualcos'altro. Ma insomma, è un eterno ritorno, no? È molto sciana questa cosa. Però io credo che Di Francesco qualcosa ancora poteva dare. Però insomma, evidentemente se hanno deciso di far così, avranno avuto dei loro motivi. Cioè, per me il Sassuolo può salvarsi, non lo dico perché questo era scherzo, era solo 24 ore di Confindustria, ci mancherebbe altro. Forza Sassuolo, sto scherzando ovviamente, magari qualcuno ci crede davvero, per noi le 20 squadre sono tutte uguali. Ecco, io penso che il Sassuolo però abbia delle caratteristiche, delle qualità per potersi salvare. Beh, innanzitutto ha un attaccante che segna, Francesco. Detto questo, insomma, se sicuramente Livorno ha pesato, perché entrare in campo così molli in una partita che è uno scontro diretto contro una squadra che aveva sì la scossa di Carlo, però evidentemente in grande crisi è stato fatale. No, pessimo, ad Eusebio tre fischi subito, non si gioca così, anche se sono d'accordo, Sassuolo può salvarsi anche perché ha un attaccante che segna. Allora, meravigliosi oggi i nostri ascoltatori di SMS. Uno scrive, Teo da Torino, a sentire il procuratore di Guarin sembra che sia stato rapito, liberatelo. Poi ce ne sono molti, non canta Seedorf, amici, Giovanni da Milano e altri, ma bravissimi quelli che hanno indovinato, Marco da Bologna, Luca da Busto in provincia di Cuneo, quello che canta. Pardo, è Ronaldinho. Oh, Ronaldinho. Oh, Ronaldinho. Hai sentito il colpo di Giorgiva? Ascolta, ti ho trovato un lavoro. Vado. Ti ho trovato un altro lavoro. Vai. No, vado. Dopo il traffico vado. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, ti ho trovato un lavoro, un altro lavoro, eh? Sì. No, perché io sinceramente la biografia di Mazzarri non la compro, quella di Ferguson neanche, mi accontento degli estratti, mentre comprerei subito una biografia di Emiliano Mondonico. Ah, come va? Ci siamo andati vicini, poi il mondo. Buon pomeriggio a tutti, con molto molto rispetto. Senti, ma Mondo, ti affideresti a Pardo per un'autobiografia? Cioè, lui ha, ma ci siamo incontrati a Novara un paio d'anni fa, poi non si è fatta più, non so perché, onestamente. Non perché? Lo so. Non lo so, sinceramente non lo so. Chiediamoglielo. Ma forse non lo sa neanche lui. A me? Io mi sono affidato interamente a lui. Gli ho dato persino l'anima. Poi dopo non ho più sentito nessuno. Diciamo che dopo una partita allo stadio di Torino, dove mi ha detto che faceva il portiere, l'attaccante, il portino, poi ha giocato in porta, e ti dirò che non ha fatto male gli ultimi 5 minuti. Non 18 minuti imbattuto. Sei stato imbattuto? No, mi ricordo. Una partita assolutamente da risultato roboante. In maniera immeritata, ma non ho preso neanche un gol. Che spettacolo, anche lì ho sbagliato. Adesso capisco perché non mi chiamano qualche squadra ad allenare. perché ho sbagliato quel cambio lì, ho sbagliato a non metterti titolare dall'inizio. Vedi che parlando con chi conta riesci a capire quello che però succede. Posso dire una cosa da calciatore vero, no? Io rispetto le decisioni del mister, perché comunque avevamo fatto una settimana complicata e avevo avuto un problema muscolare, per cui la scelta di Alessandro, poi Ale è un amico, Alessandro Preziosi, che gioca in porta al posto mio, insomma è una scelta che rispetto e condivido, sì. No, più che altro io ho saputo che ti hanno visto in giro con tre bionde contemporaneamente, e allora il mister al mister non è piaciuta, ha detto Pardo in panchina. Tra l'altro, scusa, finisco un momento autoreferenziale per un assurdo gioco del destino, che dovevo giocare in porta, poi la maglia l'ho data a Preziosi, poi dovevo giocare in mezzo al campo ma non ho più i crociati, sono finito in porta, qualcuno forse se lo ricorda, con una drammatica maglia arancione, sembravo veramente il Gabibbo. Dal punto di vista dell'immagine, diciamo che è stato un momento, stavamo lì a far beneficenza, è stata una delle cose più belle del 2013, perché insomma giocare a pallone, il mister l'ha fatto e poi ha fatto l'allenatore, ma giocare in uno stadio bellissimo con la gente è una cosa che... Non so che darei. I crociati dall'altro ginocchio. Ma perché no? Tanto ormai carriera rovinata. Con sfuriata dal primo e secondo tempo, che quando mi viene in mente mi vergogno ancora. Perché nel primo e secondo tempo perdavamo 6-3, io non sono abituato. E meno male che dopo Conte ha fatto 3-4 gol e ci ha portato in parità. Ma invece Conte, quella sfuriata, che io mi ricordo, scusa, qui adesso mi vai sugli affetti, io me la ricordo come uno dei momenti più belli, quella cosa lì non ti devi sentire in colpa, perché a me, che chiaramente non ho mai fatto il calciatore né lo farò mai, quella mi ha proprio dato il senso del calcio, cioè anche una partita in beneficenza, la partita del cuore con 40.000 persone che stavano lì solo per fare beneficenza, però alla fine non si doveva perdere, non si voleva, perlomeno non si doveva perdere così male. E mi ricordo sempre Pavel Nedved in fondo sulla panca lì in fondo, che fa: ragazzi, io adesso basta, sembra Balotelli, fa: io questa partita non la perdo, non so voi, una cosa del genere. Cioè, io ero pronto a scatenare la rivoluzione. Ti sei sentito un giocatore e vai. Allora oggi leggevo che il piccolo Mazzari andava a consegnare il pane alla mattina alle 5 con il papà, il giovane Alex Ferguson andava invece in giro per i pub del suo paese a raccogliere fondi per sostenere gli scioperi dei portuali di Glasgow. Emiliano Mondonico da bambino cosa faceva? Io avevo l'amorosa. Bravo. Lei in quinta elementare, io in seconda media, e adesso è mia moglie. Diciamo che già da allora avevo intravisto tante cose, però mi fa piacere che facessero, cioè più Mazzari che Ferguson, chiaramente, che facessero queste cose da bambino. Io avevo una trattoria, servivo anche in mezzo ai tavoli. Mi ricordo che quando giocavo nel Toro tornavo alle 6-7 del pomeriggio ed era il clou la domenica sera come trattoria, e sapevano che era la trattoria di Mondonico, e mi diceva: ma lei è il fratello di Mondonico? Io dicevo: sì, oh, è suo fratello, bravo, sì, sa com'è. Ma oggi ha giocato, ma mi sembra di no, perché avevo giocato poco, bene ma poco in quei momenti, e perciò era il fratello di Mondonico che serviva i tavoli. Anche questo mi hai tirato fuori. Hai visto? Questa non l'avevamo ancora sentita. Pardo, scrivi, prendi appunti, Sì, sì. Per la biografia di Mondonico, che ti giuro che comprerei. Veramente, avevamo fatto questo pranzo quando il mister era al Novara, e materiale letterario ce n'era molto, sinceramente, nel senso che poi, il mister è chiaramente riconosciuto per il fair play, per un certo modo di guardare il calcio, ma le sue avventure, no? Le tue avventure da calciatore, tu sei da calciatore, eri a metà fra Cassano e Balotelli, lo possiamo dire, cioè eri in grado, è quello che tu devi scrivere la biografia di Mondonico, sono proprio emozionato. Sì, abbiamo fatto un pranzo a Novarello bellissimo, e sai che anche questo adesso mi viene in mente, non so se era prima o dopo la vittoria sull'Inter, perché io mi sto ancora chiedendo perché sono stato esonerato dal Novara. Esatto. In questo momento ho due motivi: perché ho vinto a San Siro con l'Inter, o perché ho mangiato a pranzo con te a Novarello. Sì, forse questo me l'avevo, non l'avevo messo in come motivo principale, perché altri motivi non ne trovo. Insomma, battere l'Inter a San Siro, credo. Sai che forse è stato il il pranzo con te, che lì ha scombussolato tutto. Mi sembra, detto, sì. Questi abbiamo qui non destabilizzato sono a posto. L'ambiente. Poi non c'era neanche Mazzarra in panchina all'epoca. No. Perché sennò battere l'Inter forse era più facile, no? C'era no, vabbè sì, c'era Ranieri, ma era un momento anche quell'anno un po' particolare con l'Inter, e noi abbiamo attuato una tattica perfetta. Guarda, anch'io mi sono proprio orgoglioso di essere stato l'allenatore e di aver usato quella tattica. Sì. E adesso ve la posso svelare. Catenaccio e un po' di culo. Io invece ero esattamente qui, come in questo momento, esattamente dove sono ora, e sentivo Mondonico dire: per noi è stato come vincere il Festival di Sanremo. Sì. Sì, è chiaro che vincere a San Siro, no, ma ecco, l'ho detto prima in settimana, che per noi andare a San Siro era come andare al Festival di Sanremo, perché se ricordo bene c'erano i nodi al Festival di Sanremo quell'anno, che sono arrivati secondi. Ecco perché ho tirato fuori il Festival di Sanremo, perché avevo appena parlato con i miei amici nomadi se era giusto o no la loro partecipazione a Sanremo. Senti, altra argomentazione. Senti, ma cosa serve invece all'Inter, a questa Inter, per non perdere in casa con Novara di turno, per ricominciare a fare un po' di punti, per uscire da questa spirale un po' perversa in cui si è ficcata? Cosa le serve? A questa Inter serve ritrovare se stessa. Perché secondo me in questo momento non sta giocando al pari del valore che ha. Sicuramente non è una squadra che può vincere lo scudetto, però sicuramente non è una squadra che è ridotta in queste situazioni. E ti dirò che mi ha fatto molto molto piacere la presa di posizione dei tifosi, perché ci vuole sempre qualcuno che si prenda la responsabilità di tirare il carretto. Questo qualcuno alle volte è la società, alle volte è l'allenatore, alle volte sono i giocatori. In questo caso i tifosi, mostrando che non c'è indifferenza, tutt'altro, c'è ancora amore verso quello che è un po' una fede che si tiene sino alla fine. Secondo me è andato quel qualcosa in più che obbliga un po' tutti quanti a essere come i tifosi, presenti, sì, attivi, combattivi. Mondo, io su mi permetti di non essere d'accordo con te una volta? Cioè, se comandano i tifosi non siamo messi bene. Cioè, se una società si fa mettere i piedi in testa dai tifosi non è messa bene. Io capisco libertà di manifestazione del pensiero, il disaccordo, eccetera, eccetera, eccetera, però deve decidere la società. Beh, non è un segno di salute, non è un segno di salute, però in generale non te la puoi prendere con i tifosi che esprimono un punto di vista. Sono d'accordo. Te la puoi prendere con la società che è talmente debole in quel momento che non riesce ad avere le spalle larghe e la credibilità dei dirigenti per poter far digerire ai tifosi una decisione che magari non convince. Sì, però se la dirigenza si fa condizionare in maniera determinante dai tifosi, come in questo caso, secondo me è un segno di debolezza della società. In effetti l'Inter in questo momento è una società debole. Senza il minimo dubbio, perché io ti ho detto chi di solito deve un po' tirare il carretto, ed è chiaro che non ho messo i tifosi davanti, sì, ho messo i tifosi all'ultimo posto. In questo caso i tifosi dell'ultimo posto sono quelli che hanno dimostrato di tirare il carretto, che hanno dimostrato di non darsi per vinti, che hanno dimostrato di non essere indifferenti, perché sempre secondo me la morte del calcio è l'indifferenza, non la contestazione. Ah, su questo perfettamente d'accordo, infatti l'indifferenza si vede in televisione in tutte le partite del calcio italiano che Pardo racconta, e anche quelle che non racconta qualcun altro. Mister, prima di salutarti ho diversi ascoltatori molto preoccupati per i tacchini, perché nevica. C'è brutto, fa freddo, come stanno? No, stanno bene, ti dirò che sai che da me stanno bene tutti, perché muoiono tutti di vecchiaia e perciò non esiste Natale, non esiste Pasqua, non esiste niente, e loro sanno che moriranno di vecchiaia, io so che moriranno di vecchiaia, perciò li nutro con molto molto piacere, loro non fanno niente per rinunciare al cibo e vediamo un po' fino a quando avranno la possibilità di gironzolare, sì, per l'aia, per il cortile, per il prato, a ingoiare di tutto. Viva i tacchini! Grazie mister, allora presto con Pardo per la biografia, diamo questo appuntamento pubblico in uscita. Adesso però glielo do in cascina, così so, fuori dagli occhi di tutti, così esatto, chi vivrà esatto, vedrà. Esatto, anche perché dobbiamo un po' allenarci sulle prese basse, mister. Mi sento ancora molto sicuro. Va benissimo, anche lì penso che ho una porticina dove gioco con mio nipote, sì, diciamo sì, che... Sì. Tu la copriresti bene, sì, beh, quello soprattutto completamente. L'unica cosa, ecco, la densità, quella non manca, diciamo. Sicuramente. Un grande abbraccio ciao a tutti, ciao, quanti mister, voi e chi vi ascolta. Allora, chi ci ascolta e ci telefona potrà parlare dopo la borsa. 800 24 0024 è il numero verde. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata. Penso devo andare a cercarla nei prati. Tutti convocati. Questo è Art Attack. Ci è venuto un attacco d'arte, andate a vedere sul Twitter di tutti convocati. Hai visto, Pardo? No, non l'ho visto. Va a vedere, va a vedere. La tua foto in maglia arancione. Ah, c'è? Sì, beh, c'è. Trovata. Ecco, la tenuta orange, oddio, ho paura di questa. Ah, beh, carità. Vabbè. Questa foto racconta proprio anche l'estero. Guarda che è una cosa, non si può raccontare. Fammi essere un secondo retorno. Non si può raccontare, cioè l'emozione con... ho passato 18 minuti che non dimenticherò mai, capito? Poi a un certo punto mi sono aggrappato alla traversa e come ha sottolineato Pizzul nella cena post partita, la notizia è che la traversa non ha ceduto. 8-0-0 in effetti aveva ragione, è meraviglioso. 8-0-0 tutti quelli che stavano dietro la corsa. Potete parlare con un noto portiere. Sì. Allora, le agenzie, insomma, tutto mercato, anche Radiocore forse batte il vertice di due ore tra Inter e Lazio per Hernanes. Si torna a parlare sommessamente, timidamente, sottovoce con la Juventus per Vucinic, Guarin, anche perché Guarin non piglia nessuno se non per quattro soldi. La Roma firma con Berisha, attaccante svedese fino al 2018. Poi Ranocchio non va più a Galatasaray, adesso Galatasaray vuole Astori, quindi dall'Inter in uscita. Guarda, io penso proprio che se sei un nessuno calciatore professionista e durante questa sessione di mercato nessuno ti ha accostato al Galatasaray, non conti nulla. Sì, perché penso che veramente non c'è stato un giocatore del globo terracqueo che non abbia avuto una proposta. Però non li pigliano, cioè non li pigliano. La Juventus ha messo Quagliarella sul mercato ufficiale, adesso si parla di Sampdoria, si torna a parlare di Sampdoria per Quagliarella, eccetera, eccetera, eccetera. Senti, ma... No, mi sono dimenticato cosa ti volevo dire. Walter da Mantova, magari si ricorda lui. Walter, buongiorno. Salve ragazzi, buongiorno. Come io va? Vi parlerò del profondo passato di Roma-Juventus e delle semifinali di Coppa Italia. Oddio, sì. Avete evidenziato con forza che la Juventus ha affrontato quell'incontro con la squadra di riserva praticamente, no? Mi sbaglio? Ma secondo me neanche tanto, ha fatto un medio turnover. Infatti, perché io vorrei anche evidenziare che la Roma non giocava titolare con Pjanic, Destro, Dodò, Jajic, Marchigno, Borriello e Baldretti, con la differenza che nel secondo tempo, nella seconda metà del secondo tempo, sono entrati Pjanic per la Roma e Llorente e Tevez per la Juventus. E la differenza l'ha fatta proprio Pjanic, quel Pjanic che il Paris Saint Germain lo vuole a tutti i costi. Ah, ma io sono d'accordo. E poi, quindi, tra l'altro, se ha ammesso e non concesso che la Juve abbia fatto più turnover rispetto alla Roma, è vero, sì, un pochino più turnover l'ha fatto. Ma come un pochino? Ha cambiato sei giocatori, c'erano sei giocatori non titolari nella Juventus. Della Roma. Sì, vabbè, voglio sei dire. Comunque, se uno fa delle scelte le fa perché avrà un motivo, no? Cioè, non è che le fa perché vuole perdere. No, che a me sfugge, sinceramente. Però io mi attengo alla cronaca, c'erano sei rincalzi nella Juventus, compreso Peluso, compreso di quelli che conosciamo. Mancavano sei titolari. La Roma è razionale, reale e viceversa. Cioè, quello che succede, conta il campo. Slogan che sta a cuore ai tifosi della Juve. Se Conte ha messo quella squadra lì è perché ai fini della gestione del gruppo, della sua stagione, la squadra migliore da mettere in campo era quella, altrimenti dovremmo arrivare a sostenere che Conte abbia voluto perdere apposta, e non è così. Conte ci sono degli equilibri, se l'ha fatto è perché in quel momento la formazione migliore era quella, per cui i discorsi mentre sugli infortuni o sulle squalifiche si può discutere perché sono delle impossibilità reali, logiche, però insomma qui siamo di fronte a una situazione diversa, è una scelta e come sì. tale va accettata. Sì, sì, come tale va accettata. Poi, ripeto, in quella partita la Juventus con 6 giocatori, 6 panchinari, ha messo in gravi difficoltà, in grande difficoltà la Roma per l'intera partita. Quindi, ma mi attengo sempre alla cronaca. Ecco, mi è venuto in mente cosa ti volevo dire prima di Beppe da Siracusa, 800240024, tutti gli ascoltatori. Ce n'è uno via sms 349-238-6666 che scrive: Ulisse, siccome Tuir porterà l'Inter in borsa, l'accordo con i tifosi è fondamentale almeno in questa fase. Vabbè, allora, l'accordo con i tifosi è fondamentale in questa fase. Accordo con i tifosi, sì, se i tifosi ti sostengono è meglio, altrimenti se ti contestano è peggio, questo direbbe Catalano. Però un conto è l'accordo, un conto è piegarsi a 90 davanti alla volontà dei tifosi, perché c'è una differenza sostanziale in questo. Beppe, eccoci, dica. Allora ragazzi, molto semplicemente, ma Branca perché non si riesce a estirparlo dall'Inter? Estirparlo come un dente, esatto, o come una pianta marcia, o come un erbaccio. Povero, io se avessi degli argomenti giuro lo difenderei, ma giusto per andare contro tendenza, ma per me è indifendibile invece, cioè per me sì. Ha raggiunto un livello così di arterie. Ma guardi, a me viene, certamente avrà le sue colpe, eccetera, eccetera, però a me viene in mente Monsieur Maloussen. Pardo. Pennac, Daniel Pennac, scrittore francese. Monsieur Maloussen di mestiere faceva il capro espiatorio. E mi sembra che Branca in questo momento sia il capro espiatorio dell'Inter. Come ho detto l'altro giorno, oggi Milano rischia di nevicare, colpa di Branca se neviga e non c'è il sole, quindi il suo ruolo in questo momento è proprio quello del Monsieur Maloussen, cioè di quello che di professione fa il capro espiatorio di una situazione molto difficile. Sì, beh, questo è evidente, questo è assolutamente evidente, della sostanza c'è, nel senso che l'Inter le ultime sessioni di mercato sicuramente non le ha azzeccate. Sì, ma sarà solo tutta colpa di Branca, Pier, quello che voglio dire, sarà è tutta proprio esclusivamente colpa di Branca. No, questa è l'Inter di Moratti, questa è l'Inter di Moratti. Cioè io sono abituato a un mondo nel quale poi alla fine la situazione orrenda, il pesce puzza dalla testa, che è una situazione mi fa schifo, ma sì. Essenzialmente anche quando profuma, anche quando odora, anche così come Moratti è stato il principale responsabile in positivo dei trionfi del triplete e di tutto il resto, adesso è chiaro che è lui, cioè se lui non si fosse fidato di Branca l'avrebbe fatto fuori, no? In maniera con soddisfazione, con tutta l'eleganza di cui è capace. Quindi, ma poi, non è solo Branca, però no, onestamente dire che le ultime sessioni di mercato dell'Inter non hanno funzionato, beh, questo è evidente. Ma le sessioni dell'Inter non funzionano da quando è andato via? Beh, allora, se Branca è il capro espiatorio, Orial è stato beatificato da tutti i tifosi dell'Inter. Allora, è andato via lui, le cose sono andate male, eccetera. Secondo me l'uomo cruciale era il portoghese che allena il Chelsea, perché è andato via Mourinho, che in quella società decideva qualunque cosa. Sì, che poi ha fatto anche gli errori, perché Quaresma non è stato esattamente un grande acquisto. No, pessimo acquisto, ma è stato l'unico. Sì, sì. Poi per tutti i motivi che vuoi, stesso procuratore, interesse, quello che vuoi tu. Quaresma è stato sbagliato. Le società di calcio sono organizzazioni complesse, nelle quali le responsabilità, i meriti, i demeriti si gestiscono insieme, sono condivisi, su questo non ci sono dubbi. Poi il sospetto che Branca ultimamente non abbia fatto un grande lavoro, beh, questo credo che ce l'abbiamo tutti, no? Nel senso che poi comunque alla fine ci sono responsabilità specifiche a potersi il mercato, che Sabatini stia facendo grandi cose a Roma credo che sia abbastanza evidente, no? Questo è evidente, questo però è evidente. Sicuramente non, il discorso del capo espiatorio vale, perché è chiaro che non è solo colpa sua, sicuramente. Se anche arriviamo a dire che è solo colpa sua, c'è comunque qualcuno che lì l'ha preso e l'ha tenuto, quindi è anche colpa di chi l'ha preso e di chi l'ha tenuto. Questo, bravissimo. Già solo questo. Questo è conseguenziale. Hai letto cosa scrive, cosa ha scritto Ferguson nella sua biografia a proposito di Mourinho, ma anche a proposito di Benitez? Beh, di Benitez ha scritto cose non particolarmente carine. Fece l'errore di trasferire la nostra rivalità sul piano personale, e una volta che la metti sul piano personale non hai speranze con me. Io ho il successo dalla mia parte. Benitez si lamentava di non avere soldi da utilizzare sul mercato, ma in quegli anni lui ne spese molto più di me. Invece su Mourinho era molto abile. Se uno avesse visto Mou e Benitez in piedi durante le partite, avrebbe subito saputo scegliere quello vincente. Sì. E anche se sempre in quell'autobiografia lui dice che il suo primo pensiero fu: che fottuto giovane bastardo. però insomma, in quell'espressione lì, what the fucking young bastards, will. Evidentemente in quell'espressione lì, con quell'accento scozzese, no? Presente un po' Ferguson. It was a fantastic game, was very underrated play. Parla un po' così, non me ne voglio, però un po' di accento scozzese di questo tipo ce l'ha Ferguson. Evidentemente aveva capito subito però che Mourinho sarebbe stato uno che gli avrebbe creato dei problemi e che sarebbe stato un rivale alla sua altezza. Io dico che le autobiografie, ce lo diceva qualche settimana fa Buffon a Tiki Taka, poi chiaramente qualche forzatura dentro la contengono, perché devono riuscire a essere, no, in qualche modo interessanti. Poi ce ne sono alcune che raccontano pezzi di verità un pochino più profonda, altre che fanno di più 0-0. Il successo dell'autobiografia è dovuto a queste due cose, no? Grande personaggio che racconta una storia forte, quindi senza fare 0-0. E Ferguson sicuramente non l'ha fatto. Grazie Pier, sentiamo domani? Ciao, certo. Stiamo qua. Convocati. Sempre naturalmente, tutti convocati 800 24 00 24, fino alle 15:20 o giù di lì ogni giorno. Sempre a proposito della biografia di Ferguson, a proposito di Beckham, del suo figlioccio David Beckham, sapete cosa ha scritto? Allora, un giorno ha deciso di diventare una star e ha pensato di essere diventato più importante di Ferguson. Quel giorno ho deciso che doveva andarsene. Altre notizie di oggi: Nocerino è esclusa dalla Lega Pro e ci mancherebbe, mi sembra l'unica soluzione normale, comprensibile e conseguenziale a quella, le porcate che sono successe quel giorno. Massimiliano Napoli, buongiorno. Buongiorno, volevo solo effettuare due rapide considerazioni sul mercato, in special modo su internet, su internet. L'internet è sempre presente ormai nei nostri giorni. Allora, partiamo dal fatto che io sono juventino, quindi sì, totalmente esterno. A me sembra che il signor Blanca è lo stesso signore che ha portato i vari Milito e tu, Snyder, all'Inter del triplete. E seconda cosa, io vorrei capire solo una cosa: perché i 13-14 milioni da offrire alla Lazio per Hernanes ci sono, mentre per andare a comprare Vucinic solo per mettere in mezzo Guarin, poi vabbè, le situazioni ambientali che non hanno permesso questo trasferimento alquanto ridicolo, no? Qui non capisco perché alquanto ridicolo. Cioè, lei pensa che l'affare Guarin-Vucini sia stata una montatura dell'Inter per fare un dispetto alla Juventus? No, non penso questo, però penso semplicemente che, allora, una volta che, effettuando anche l'esempio che fece Carissa, no? A Sky Sport 24, disse che comunque il calcio, la società calcistica, è un'azienda. Quando si punta al lato sentimentale, l'azienda fallisce. Questo è stato l'Inter, perché sì, sinceramente, andando contro il proprio allenatore, che Mazzarri aveva chiesto precisamente Vucinic, e anche al Napoli l'aveva chiesto, no? Se non sbaglio, infatti. Sì, certo, anche... ma non c'è dubbio che Mazzarri volesse Vucinic. Questo non è, però non è questione di aspetto sentimentale. La verità è che nell'Inter non c'era un uomo forte in grado di dire: benissimo, i tifosi la pensano così, il mio allenatore mi chiede un giocatore che io vorrei prendere, ci serve, voglio accontentarlo. Guarino ormai in uscita, gli stessi tifosi lo fischiano tutte le domeniche, non c'è mai stato un grande rapporto con la curva. Ebbene, i tifosi dicono quello che vogliono, la società è questa e fa questo scambio. Dunque, se ci fosse stato un uomo forte, l'affare sarebbe andato in porto. Mentre ora, cosa succede? L'Inter di nuovo vuole Vucinic. Perché? Perché le serve. Lo scambio con Guarin mi sembra ormai andato, ormai decotto, nonostante quanto dice il procuratore di Guarin, che abbiamo sentito prima, hai ragione, l'ascoltatore, sembra che è stato sequestrato, per favore liberiamolo. È lì fuori dalla porta di Tor che aspetta, ma non viene ricevuto. Ebbene, Guarin che mercato ha adesso? L'Inter, alla conclusione di questa vicenda, si trova senza Vucinic, appunto giocatore che voleva Mazzarri, di cui aveva bisogno, senza Guarin, perché di fatto Guarin non potrà più giocare nell'Inter, e con un giocatore, lo stesso Guarin, totalmente deprezzato, perché adesso più di 8 milioni, mi sembra sia l'offerta del solito Galatasaray, per Guarin l'Inter non prende, ne voleva 15, e comunque in quello scambio, lo stesso Moratti ha detto, dal punto di vista economico, lo ha detto ieri, l'affare era congruo, e se lo dice Moratti, beh, possiamo anche crederci o far finta di crederci, no? Giuseppe da Salerno, dica. Ah, buongiorno. La mia è una domanda un po' provocatoria. Voi giornalisti, sia radiofonici che televisivi, ma siete pagati anche dalla Juventus, oltre che dalle vostre rispettive compagnie. Perché mi sembra che non c'è mai, non c'è mai una nota di demerito per la Juventus, sempre per le altre squadre. Prendiamo spunto, per esempio, dalla partita di Coppa Italia, per esempio, dalla partita di campionato con la Lazio. Cioè, il telecronista della Sky, che io pago un cano e non sono un tifoso di nessuna Però squadra. Io qua non c'entro, giuro che non lavoro per Sky, qua non c'entro. Siccome io vi seguo tutti i giorni, non vedo mai una nota di demerito nei confronti della Juventus, sono sempre gli altri e gli altri a sbagliare. E questo mi sembra effettivamente un po' troppo anomala la cosa. Dico, l'altra sera, ma perché il telecronista di Sky era titubante a dire che quella era un'espulsione o un rigore? Secondo lei perché? Chieda a lei, perché lei uno che paga il canone, se quel fallo là l'avrebbe fatto il portiere del Sassuolo, no? Diceva ineccepibile. Non so se l'avrebbe fatto qualcun altro, non lo so, non glielo so dire. Ma Giuseppe, mi nascondete sempre dietro il dito. Giuseppe, io sono pagato dalla Juventus, come dice lei, ma sono pagato anche dal procuratore di Balotelli. Poi chi è che mi paga? Piantaneda, non mi ricordo più. Da chi prendo i soldi io? Sì, per quello che ho detto, comunque poi faccio l'elenco delle mie entrate che sono innumerevoli, prendo anche i soldi della Juventus ovviamente per parlarne bene, perché ne ha un totale bisogno ovviamente, dato il prestigio del palcoscenico. Allora, non so dire perché il tecnologista di Sky, non ricordo nemmeno chi fosse, ha avuto titubanze. Non so neanche se abbia avuto titubanze, in tutta onestà, perché stavo guardando la partita e non ho fatto caso esattamente come veniva commentato un episodio che era solare, cioè non penso sia indiscutibile. E così come credo o mi illudo del fatto che qualunque telespettatore di Sky o di un'altra emittente, insomma, sia in grado di farsi un giudizio da solo, senza dover così essere pilotato da qualcun altro. Quello era un rigore enorme, nemmeno Conte è riuscito a dire che c'era un sospetto, cioè un rigore solare, l'espulsione giusta, mi sembra un episodio ineccepibile. Detto questo, è ovvio che siamo tutti pagati dalla Juventus. Beppe Bologna, buongiorno. Salve, buongiorno. Innanzitutto, volevo salutarvi e poi fare complimenti a Pierluigi Pardo, che secondo me è un portatore sano di allegria. Sì, è vero. Va bene, detto questo, volevo intervenire un attimino sul mercato. Avete un po' detto nelle prime due telefonate precedenti un po' quello che volevo dire io. In realtà volevo difendere Branca, o quantomeno dire che secondo me l'operato di Branca invece è invalutabile nell'Inter, perché non credo abbia commesso grossissimi errori e neanche grossissime operazioni di mercato positive. Insomma, è stato lì, però mi perdoni Beppe, Branca non è lì da ieri, né dall'altro ieri, né dall'anno scorso, è lì da molti anni, quindi proprio invalutabile no. Insomma, se uno è lì da 6-7 anni, 5 anni, non ricordo esattamente quando è stato ingaggiato dall'Inter, se è lì da così tanto tempo non si può dire invalutabile. Cioè, se è un dipendente che ha assunto 5 anni fa, non può dirmi dopo 5 anni, il suo operato non riesco ancora a valutarlo, perché non capisco se ha fatto bene o ha fatto male. Non ha fatto benissimo nelle ultime stagioni, anzi ha fatto male nelle ultime stagioni, però qui ha ragione Pardo, ci sarà anche qualcuno che lo ha preso, voluto, confermato, riconfermato, straconfermato, e quindi penso che le responsabilità vadano quantomeno condivise, e non possa essere il solo Branca a dire tu sei il male assoluto, è solo colpa tua se l'Inter è in questa situazione, perché non è così. 800240024, state con noi, dopo il GR torniamo. Tutti convocati. 800240024 è il numero verde. Questo è il numero verde. Poi mettiamo su Twitter il mio IBAN, grazie. No, perché allora, per la cronaca, sono pagato dalla Juventus, però da Balotelli, lo sapete, però mi è stato fatto notare, hanno chiamato subito gli avvocati, guarda che ti paga anche Mourinho, guarda che ti paga anche Valentino Rossi, sì, però c'è spazio ancora anche per altri, quindi per ragioni di chiarezza, tanto è tutto pubblico, IBAN per favore su Twitter mio e di Pardo. 800 24 00 24 è il numero verde. E c'è una cosa che insomma ieri mi ha, devo dire la verità, mi ha divertito molto. Cronaca, questa è la Mercedes, ma è solo esemplificativo, perché può essere il rumore di una qualunque altra macchina, nuova macchina turbo, ma non vorrei infastidire il professor Giorgio Terruzzi. Buongiorno. Buongiorno. Che oggi sul tratto sul Corriere della Sera, Ferrari gira nel deserto, le nuove auto non partono. Allora, sono aspetti molto seri in gioco, un sacco di quattrini, macchine che costano milioni, però questo fatto che non partono, che vanno a sbattere dopo una curva, che perdono i pezzi per strada, la trovo irresistibile. Perdonami, No, ma adesso intanto oggi già un po' meglio qualcuno meno bene, tipo la Red Bull. Però il problema è che qui abbiamo a che fare con dei sistemi completamente nuovi e molto evoluti. Parlo di sistemi di motorizzazioni che poi in realtà non sono più neanche dei motori, cioè c'è anche il motore, ma in realtà è un accrocchio molto complesso con una gestione elettronica complicatissima, più una gestione di tutto questo che richiede moltissimo tempo e moltissima fatica per spiegare, perché sì, persino noi qui che ce la tiriamo da quelli che la sanno lunga, cioè facciamo fatica a comprendere la qualità ingegneristica di sti accrocchi, figurati a spiegarla. Che c'è poco tempo peraltro per sviluppare, quindi qualcosa di totalmente nuovo, di molto complicato e con pochi margini di evoluzione, visto il regime in cui le Formula 1 sono costrette ad operare. Laggiù ai Reds, dicevi Giorgio Terruzzi, visto che sei lì questa mattina, battono più veloce, Raikkonen in terzo tempo, comunque un po' meglio per tutti. Però adesso queste macchine, insomma, le valutiamo, ieri ho fatto l'esempio del Festival di Sanremo, le valutiamo dal punto di vista estetico e sonoro, no? Valutiamo il rumore, Vettel dice mi piace di meno rispetto al vuoto che avevo prima, le valutiamo dal punto di vista appunto estetico, strane forme, musi particolari, nasi che spuntano da tutte le parti, non c'è molto altro da valutare in questo momento, mi pare. No, ma nemmeno i tempi, cioè qui nessuno sta forzando, non si sognano neanche di forzare in questo momento, perché cioè, insomma per spiegare, c'è cioè questo motore che recupera energia dal turbo, dal gas di scarico, che è una novità assoluta, ce l'hanno solo in Formula 1, nessuna macchina di serie ce l'ha, mentre il resto è cosa che già è presente nelle macchine, quindi sono praticamente tre motori più il turbo e questa roba qua è una complicanza mostruosa, in più hanno dovuto abbassare i musetti per una questione di sicurezza, in più dovranno usare 100 litri di benzina, 100 kg che non basteranno per arrivare in fondo, quindi ogni pilota sarà obbligato, ogni squadra, ad usare potenza che viene dall'elettricità, come, con che sistema, con che dosaggio, tutto questo significa fare con una gestione elettronica di questi meccanismi che adesso occupa tutti, cioè, quindi non stanno forzando, i tempi non hanno nessuno, ieri hanno fatto dei tempi di 10 secondi superiori al record di qui dell'anno scorso, cioè non, proprio siamo in una zona di penombra molto densa, capisci? Certo. Cioè, non è neanche il momento di prestazioni e secondo me non basterà adesso. Con oggi, smaltito oggi, hanno 10 giorni prima di fare il debutto a Melbourne di test. Non bastano, non bastano. Quindi la Red Bull è ferma, la Red Bull ha fatto 8 giri, Vettel ha fatto 8 giri in 2 giorni. Sì. Niente. No, ma poi ci sono quelle che partono e si spengono immediatamente, ci sono quelle che rimangono ferme sul tracciato, quindi possiamo, possiamo aspettarci, Giorgio, un debutto stagionale sulla falsa riga della comicità, no? Magari un debutto, scusami, non ti ho sentito. Un debutto stagionale piuttosto comico, con macchine che si fermano lungo la strada, magari qualcuno finisce la benzina, magari qualcuno che vi salta il motore dopo 30 metri, insomma, è qualcosa sì, di difficilmente immaginabile questo debutto stagionale. Sì, anche se sta gente qua è svelta, cioè hanno delle capacità di adattamento e di elaborazione dei problemi molto alta, quindi può anche essere che da qui a Melbourne molte questioni siano risolte, però i motori sono più delicati, più vulnerabili. Quando c'è un, diciamo così, un cambio così rilevante, uso una parola brutta, ma insomma la mortalità dei vari pezzi, per intenderci, si alza, no? È un po' così. Sì. Senti, io non vorrei mettere insieme pizza e fichi, ma lo faccio, approfittando della tua presenza, anche se sei a Erezza a parlare, scrivere, a raccontare di Formula 1, il rugby. Sei nazioni. L'unico argomento al via. Del quale vale la pena, eh? Cioè, no. Sì, ma poi insomma sì, mi piace molto. Lo so, ti piace molto e ne capisci moltissimo. E io però ho paura che ci arrivi in testa a partire da sabato un altro cucchiaio di legno, un'altra mestolata. La mia paura credo sia fondata. Ma sì, perché il rugby. Noi non siamo un popolo che non ha le caratteristiche per il rugby. Abbiamo troppo il culo nel burro, non ce n'è di balle. Poi sono pochi giocatori. Secondo me a quel livello lì non ce n'è. Sì. Pazienza, cioè, a me interessa il rugby non seguendo quello che sta facendo la federazione nazionale. Il bello del rugby è quello che succede nei club, secondo sì. me. È quello che succede coi bambini, quello che succede quando il rugby diventa uno strumento di crescita, di educazione. Poi l'Italia se la mette su quel fronte lì dell'alto livello internazionale non ci siamo. Ma su questo sono perfettamente d'accordo, Giorgio, lo sono sempre stato, il rugby è uno sport meraviglioso con un sacco di filosofie intorno, però sono sempre stato critico nei confronti della nazionale delle onorevoli sconfitte. Se perdi sempre vuol dire che tanto bravo non sei. E se perdi sempre e i tuoi soldi, che sono tanti, vengono comunque garantiti dal board del Sei Nazioni, forse non hai neanche lo stimolo per migliorare. Dunque, nello sport professionistico a questi livelli con tanti soldi non si può cantare come Guccini, l'importante è la partecipazione. Sono d'accordo con quello che dici, sono non solo, ma a me sta retorica da finti appassionati o da accrocchiati al rugby, per cui c'è l'onore del guerriero che perde con onore, che canta l'inno sguaiatamente perché fa rugby, a me non piace, cioè sono tutte balle, non servono e non ci interessano. Uno, non penso che nessun'altra nazionale possa permettersi questo standard di prestazioni come quello che sta accadendo alla sala di rugby in questi anni, senza di fatto patire a livello di critiche serie sulla gestione, su come si fa. Poi, insomma, che questo abbia portato anche però a una divulgazione del rugby, abbia portato un sacco di bambini, di famiglie a ipotizzare che il rugby possa essere uno sport utile per i propri figli. Questo è vero. Riconosciuto anche al fatto che la nazionale appare di più, è più presente negli schermi, sui giornali, la televisione, insomma, perché fa quella vetrina lì. Certo. Giorgio, ti ringrazio, io questa me la taglio e me la tengo, poi tanto mi arrivano le critiche, ma tanto siamo belli, siamo bravi, abbiamo coraggio, abbiamo onore, partecipiamo, non ci frega niente di perdere. Sì, ma coraggio ce l'ha anche un giocatore di Serie C uguale, ce l'ha un giocatore, cioè non c'entra niente, cioè il coraggio è quello di stare nel mondo con forza, con lealtà, come si fa da per bene. Grazie professore. Insegna e beh, basta. Grazie. Ciao. Giorgio Terruzzi, grandissimo. Allora, ha detto Giorgio Terruzzi, cioè uno dei pochissimi in grado, secondo me, di parlare, scrivere, raccontare il rugby con grande cognizione di causa, quindi non sono solo io nella riserva indiana. Arthur Mantova, buongiorno. Ovviamente una Guccini e McGavern, quello della partecipazione. Arthur da Mantova non c'è, ripeto, ho sbagliato cantante, quello della partecipazione della McGavern, ma il discorso è perfetto lo stesso, cioè io sono un po' stufo di dire ah, ma perdiamo ma fa niente, ma abbiamo le nostre giustificazioni, ci sono un sacco di infortunati, quindi sarà un 6 nazioni oggettivamente molto difficile per la nazionale italiana, però torno a ripetere, sono stufo di tanta demagogia che circonda questo sport meraviglioso, ma la demagogia rimane tale, secondo me. Silvano da Cremona al volo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Io ho appena sentito che parlavate di rugby, ma personalmente, se posso dire la mia, io lo trovo di uno sport di una bruttezza epocale. No. Cioè, non ci vedo un... Vabbè, forse sono stato cattivo ad esprimermi così, però no, brutto. Non lo vedo molto spettacolare. Dipende cosa si intende. Indietro, beh, insomma, avanti, 15, io quando vedo giocare gli All Blacks, quando vedo giocare, è uno sport non semplicissimo da comprendere, e in questo, sì, in capito, questo bisognerebbe però essere un po' più divulgativi e meno retorici. Questo lei ha ragione. Poi cos'è la bellezza? Mi faccio fare della filosofia. La bellezza è personale, però se siamo in tanti a pensarla così, sì. Cos'è bello secondo lei? Per me è una corsa di come? Un gol di Baggio? Una corsa di Bolt, un canestro di sì, LeBron James e Michael Jordan? Di Michael Jordan, sì. Ma una mischia di 30 persone non mi piace. Dei gusti, Bussivano. No, insomma, un mischio di 30 persone. Il rugby può avere una sua estetica diversa. Vedere giocare le grandi nazionali, vedere un Francia-Inghilterra è onestamente qualcosa di bello, di appassionante e di emozionante. Poi, insomma, siamo a livello di preferisci Renoir o Van Gogh. Grazie, comunque Silvano, è stato molto piacevole. Torni a trovarci, anche perché adesso abbiamo finito il tempo. Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Domani qui c'è Giovanni Capuano, ci risentiamo per quanto mi riguarda venerdì. Beato te, contadino. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata. Penso devo andare a cercarla nei prati. Il più ricco di un re. Intorno a te, contadino. Sto togliendo i germogli a un gelso.